le 12.59. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Illecito anche lo sciopero bianco, dice la Commissione. Epifani chiede al governo un incontro sulla crisi, resta la frattura aperta con la CISL. Basta pregiudizi, richiamo di Napolitano sull'immigrazione, dai nuovi arrivati forza e freschezza. G8 oggi pomeriggio la sentenza per l'irruzione alla scuola Diaz, sotto accusa 29 tra poliziotti e dirigenti del Ministero dell'Interno. Inflazione confermata al 3,5%, nonostante il calo delle materie prime, pane e pasta aumentano di prezzo. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. In primo piano in queste ore i temi sindacali. Da una parte infatti è aperto lo scontro fra Guglielmo Epifani e gli altri leader sindacali, e poi c'è anche la questione all'Italia con nuove cancellazioni di voli questa mattina e il garante che parla di sanzioni possibili anche per chi fa lo sciopero bianco. Partiamo proprio da questo. Valentina Furlanetto, cosa ha detto Antonio Martone? Sì, Martone ha preso posizione questa mattina contro lo sciopero selvaggio dei dipendenti all'Italia di lunedì scorso, ma anche, come dicevate, contro lo sciopero pignolo o sciopero bianco attuale, che consiste nell'applicare alla lettera le regole del manuale operativo, rallentando o annullando di fatto l'operatività dei voli. Per Martone, sia uno che l'altro sciopero rappresentano una grave lesione dei diritti dei cittadini e una evidente, dice, violazione delle regole. Martone questa mattina ha incontrato i sindacati autonomi del fronte del no alla CAI per un caldo invito, ha detto, a interrompere queste agitazioni. Dopo l'incontro con le sigle, la commissione si riunirà per prendere le decisioni del caso. Questa mattina è intervenuto anche il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Il problema a questo punto, ha detto, è di ordine pubblico per Sacconi. Lo sciopero bianco merita di essere considerato con attenzione dalla magistratura. Valentina, sul fronte invece delle cancellazioni, proprio praticamente che cosa sta accadendo questa mattina? Sì, anche oggi è una giornata di disagi per chi viaggia con Alitalia. Secondo quanto si è appreso al momento a Milano Linate, sono 10 le partenze e 5 gli arrivi cancellati. A Malpensa sono 3 le partenze e 5 gli arrivi cancellati. Situazione analoga a Fiumicino, dove si registrano una ventina di voli cancellati tra partenze ed arrivi e oltre una decina di ritardi, con attese che oscillano tra i 20 minuti fino a quasi 2 ore. I passeggeri però corrono anche ai ripari, infatti questa mattina molti hanno scelto altre linee aeree. E poi una decina sono gli esposti presentati da lunedì alla Polaria per i disagi subiti. Dalla parte dei passeggeri si schiera anche ENAC, che intende multare Alitalia per i disagi recati sugli scioperi. E poi intervenuto infine il commissario europeo ai trasporti Tajani. Gli scioperi selvaggi, ha detto, di una parte possono essere sanzionati anche dall'Unione Europea. E allora ha invitato i viaggiatori che si sentono danneggiati a farsi vive anche con la commissione. Grazie Valentina. Tra l'altro sentiremo tra poco alle 13.45 la voce del commissario europeo Tajani invece sulla decisione di ieri di approvare il piano di salvataggio. Veniamo ora alla frattura che si è creata fra i sindacati confederali. Ieri l'ira del segretario della CGIL per non essere stato invitato a questo presunto incontro che si sarebbe tenuto a Palazzo Grazioli fra Berlusconi, il presidente di Confindustria Marcegaglia e i leader di CISL e UIL. Tra l'altro il leader della CISL Raffaele Bonanni ha pubblicamente smentito questo incontro. Oggi Epifani sta parlando ad una manifestazione per i 60 anni della SPI CGIL a Roma, ossia i pensionati. Francesca Malaguti, buongiorno. Buongiorno, il giorno dopo la frattura tra i sindacati il segretario Guglielmo Epifani sta parlando proprio in questi momenti dal palco della manifestazione della SPI CGIL. Ieri ha definito un fatto inaccettabile l'incontro informale che ci sarebbe stato martedì sera a casa del premier Silvio Berlusconi con la presidente di Confindustria Marcegaglia e i segretari di CISL e UIL, ma senza la CGIL. Prima di salire sul palco poco fa Epifani è tornato sull'argomento e più in generale sulla rottura tra i sindacati. Sentiamo cosa ha detto. Sono divisioni che nascono dal merito dei problemi. Per noi bisogna affrontare il tema della crisi con strumenti forti, eccezionali, perché la crisi è eccezionale. Chiedo al governo di aprire un tavolo, di avere un confronto con tutte le organizzazioni sindacali alla luce del sole. Lei ha già scritto una lettera ai segretari di UIL e CISL al presidente di Confindustria. Adesso la scriverò in giornata. Il segretario della CGIL CGIL ha condannato lo sciopero senza regole che stanno portando avanti i dipendenti di Alitalia, dicendo ogni sciopero di questo tipo va contro i cittadini. Ha poi parlato dello sciopero di domani sull'università, da cui ieri si sono sfilate CISL e UGL. Epifani ha detto: sarà una manifestazione per dire sì a una riforma che renda l'università più all'avanguardia e no ai tagli. Non temo la violenza, confido che i giovani avranno un atteggiamento pacifico e responsabile. E ha aggiunto: tutti i paesi del mondo di fronte alla crisi intervengono finanziando la scuola, mentre il nostro sta facendo il contrario. Per ora da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Francesca Malaguti. La Malaguti citava l'UGL che si è ritirata, ha tolto il sostegno allo sciopero dell'università di domani, e fra poco alle 13.15 avremo in diretta il segretario dell'UGL Renata Polverini, sia per parlare di università ma naturalmente per parlare di questa profonda spaccatura che si sta realizzando nel mondo sindacale. Abbiamo parlato in apertura delle difficoltà nelle quali si sta dibattendo all'Italia, e mentre l'Italia si dibatte in queste difficoltà, le ferrovie si muovono. Si muovono e potrebbero così sottrarre alla compagnia aerea una buona fetta di mercato. Vanessa Colangiuli. Sì, buongiorno. Grandi progetti e rivoluzione, come avete detto, nelle Ferrovie dello Stato, che ha l'obiettivo di ampliare la quota di mercato dal 35 al 60% con l'alta velocità. Grazie a cui sarà possibile raggiungere in 60 minuti il centro di Bologna dal centro di Milano. L'offerta è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Il via effettivo il 14 dicembre prossimo, quando Nord Italia e Centro Italia saranno collegati da Eurostar, che viaggeranno a 300 km all'ora. Ma sentiamo Mauro Moretti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Andare da Bologna a Milano in un'ora poco più, e nemmeno l'attraversamento di Milano, da Firenze a Bologna in mezza ora, capite cosa vuol dire? È una rivoluzione vera, perché vuol dire rimettere in gioco tutta quanta la nostra capacità di italiani, rimettere sinergia nel paese, farlo più compatto, offrire una leva di sviluppo. Una grande concorrenza per gli aerei, però una grande concorrenza fatta su un sistema ferroviario che è frutto dell'intelligenza italiana, del lavoro italiano e dell'impresa italiana. Ecco, saranno 22 gli Eurostar ad alta velocità tra Milano e Napoli e 50 tra Milano e Roma. Quest'ultima distanza è percorribile in 3 ore e 30 e da dicembre 2009 in sole 3 ore. In meno di 5 ore invece sarà possibile raggiungere Milano Centrale da Napoli. Ogni giorno poi almeno un Eurostar collegherà in meno di 4 ore Roma con Venezia, Verona, Genova, Bari e Lamezia Terme. Ma Ferrovie dello Stato è al lavoro anche per aprire a dicembre del 2009, scusate, altre tratte: Novara-Milano, Bologna-Firenze e l'asse Verona-Padova. Già nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i biglietti. Almeno per un mese sui prezzi massimi verrà praticato uno sconto del 10%. E da Roma è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Vanessa. Si è ritirato alle 10.37 in Camera di Consiglio il Tribunale presieduto da Gabrio Barone, che metterà la sentenza a carico dei 29 tra agenti e dirigenti della Polizia di Stato accusati dei fatti avvenuti all'interno della scuola Diaz durante il G8 di Genova. E sentiamo in questa ricostruzione di Cristina Carpinelli che atmosfera si respirava in quei giorni a Genova. La giornata era stata terribile, il caldo ci aveva schiacciato la testa, la violenza che avevamo visto per strada era stata così cruda che anche gli occhi dei cronisti più vecchi, quelli che sembravano abituati a tutto, erano semichiusi e stanchi. Il bivacco serale era iniziato, girava voce che era meglio non farsi trovare in giro per strada. Alcuni ragazzi cercavano amici di cui non si sapeva più nulla. Di fronte alla scuola Diaz, usata come base del Genoa Social Forum e di Indie Media, c'era la scuola Pascoli, adibita a dormitorio. Dentro la Pascoli c'era un bel via vai e poco controllo. Così come c'era poco controllo attorno al movimento durante il corteo. Il movimento No Global era un fiume con un sacco di affluenti. C'erano i cattolici, le suore missionarie, gli anarchici, i nuovi creativi, quelli che sarebbero entrati in agenzia anni dopo, ma allora erano in strada con i capelli arruffati a chiedere un mondo nuovo. Mesi prima a Genova li avevamo incontrati tutti quei ragazzi. Ognuna di quelle anime ci aveva raccontato in cosa credeva e cosa chiedeva. In quei giorni, di fine luglio, invece qualcosa si ruppe. I ragazzi del blocco nero, i Black Blocs, menarono le mani, si dicevano anarchici fuori da ogni schema e distrussero assieme ad altri estremisti il movimento e la città. La polizia rispose caricando in ogni angolo, menò anche donne di 50 anni sedute a terra con le mani alzate. Però quella notte alla Diaz successe qualcosa di ancora più faticoso da raccontare. I polizia poliziotti che entrarono alla Diaz raccontano che attorno alle 21 della sera del sabato alcuni cittadini segnalarono la presenza in zona di alcuni manifestanti intenti a posizionare cassonetti dell'immondizia in mezzo alla strada e a liberarsi di caschi e bastoni. Successivamente la segnalazione di un attacco a una pattuglia di poliziotti porta alla decisione da parte delle forze dell'ordine di una perquisizione presso la scuola Diaz. La polizia continuerà a parlare di perquisizione anche davanti alle immagini di persone portate fuori piene di sangue dalla scuola Pascoli. Per terra, dopo, quando all'alba ci fecero entrare, noi cronisti trovammo chiazze rosse, zaini svuotati, oggetti sparsi in ogni angolo. Il giorno dopo la città ospitò un corteo blindato, un movimento distrutto. I treni erano già pieni di ragazzi che tornavano a casa. Due anni dopo, il sindacato di polizia cercò di ricucire quello strappo. Oggi, a Genova, 7 anni dopo, si cerca giustizia. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Dall'Italia agli Stati Uniti, due notizie che ci parlano di quello che in realtà si presume, almeno secondo le barzellette, essere il peggior nemico dell'uomo. O magari anche della donna, chissà. Chi è? Beh, sentite un po'. Che possa essere un peso, si sa. Vorrei parlare di un animale cattivo che conosciamo tutti, che è la suocera. Ma che la suocera possa essere causa dell'annullamento di un matrimonio suona abbastanza nuova. La storia inizia 10 anni fa. Se tua madre continua a interferire nella nostra relazione, io divorzio subito, dice Antonio a Gemma. La suocera non demorde. Antonio, dopo qualche mese, chiede l'annullamento della sacra rota e lo ottiene. Motivo di nullità, l'apposizione di una condizione sul futuro del matrimonio. Ma questa volta anche il giudice laico ha concordato. Non ha approfondito il comportamento della signora terribile che, a sottolineato, era conosciuto anche dalla moglie. La Corte d'Appello ha riconosciuto il provvedimento del Tribunale Ecclesiastico. Ah, le suocere italiane, verrebbe da dire. Cara, mia moglie è una strega e mia suocera una stronza. La vostra farsa è finita. Vi ringrazio della partecipazione. Ma da questo momento in poi sono libero. Libero! Eppure anche negli Stati Uniti mamma ha un suo peso. Basti pensare che alla Casa Bianca sta per approdare anche Marianne Robinson, mamma di Michelle Obama. My mother is with me. My mom, Marianne Robinson, there she is. La first mother-in-law, assicura, si limiterà a fare quello che negli ultimi anni ha sempre fatto, cioè prendersi cura delle nipotine Sasha e Malia, sperando che a Barack vada meglio che al povero Harry Truman, che, stando alle cronache del tempo, subì la presenza della suocera Madge Wallace come un'autentica tortura. Ce ne stai andando? Perché? C'è mia suocera che entro lunedì potrebbe morire. Vuoi vedere che va a morire domenica, che c'è il derby? È cattiva, tu non la conosci, è cattiva. Si spara di giovedì. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. All'Italia il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi Martone dice potrebbero essere sanzionati anche gli scioperi bianchi. Ancora voli cancellati a Roma e Milano. Sono una decina gli esposti presentati da lunedì scorso alla Polaria per i disagi subiti. Gli immigrati sono un fattore di forza e di freschezza per il paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Devono cadere vecchi pregiudizi, ha detto il capo dello Stato, occorre un clima di apertura. La Germania è ufficialmente in recessione, dalla BCE arriva un messaggio preoccupante per tutta Europa, la crescita è vicina allo zero. La CGIL chiede al governo un confronto sulla crisi, resta aperta comunque la frattura con la CISL e la UIL, fra poco in diretta il segretario dell'UGL Polverini. G8 a Genova, oggi dovrebbe arrivare la sentenza per i poliziotti e i dirigenti del Ministero dell'Interno accusati di violenze nell'irruzione alla scuola Diaz. Renata Polverini, segretario dell'UGL, insomma il sindacato tradizionalmente vicino al centrodestra. Buongiorno. Buongiorno. Lei sta guardando un po' dall'esterno questa frattura che si sta realizzando fra la CGIL e la CISL. Insomma, una frattura certo non nuova, perché storicamente ne sono avvenute altre, ma come vede da osservatrice esterna quanto sta accadendo? Ma mi pare che questa è una frattura che rischia di essere più preoccupante delle fratture che comunque negli anni passati ci sono già stati. Io credo semplicemente una cosa, che andrebbe recuperato un po' di buonsenso da parte di tutti, come abbiamo fatto dandone dimostrazione nella vertenza all'Italia. C'eravamo divisi anche lì, la CGIL aveva avuto un atteggiamento molto diverso da quello di CISL, UIL ed UGL. Alla fine, parlando, cercando comunque di mediare le diverse posizioni, in qualche modo abbiamo dato la possibilità alla compagnia di bandiera di continuare a volare. Mi pare che su questioni importantissime come quelle che si stanno decidendo in questi giorni rispetto alla crisi finanziaria, piuttosto che alla riforma del modello contrattuale e non ultimo alla riforma del pubblico impiego, della scuola e dell'università, io credo che semplicemente ritrovando un'unità concreta sulle questioni di merito, forse il sindacato può dare una risposta alle tante persone che tutti quanti insieme rappresentiamo. E fin qui il merito, appunto, segretario. Per quanto riguarda il metodo, invece, a quanto sembra nemmeno voi avete nascosto l'irritazione per questa mancata convocazione di questo presunto incontro riservato di Silvio Berlusconi con i vertici di CISL e UIL. Che cosa è successo e come la vedete? Ma guardi, io ho appreso la notizia da un'agenzia di stampa che mi è stata comunicata mentre vedevo Ballarò, come tanti milioni di italiani, e l'ho appresa evidentemente con una certa sorpresa, intanto perché non era in calendario nessun incontro e anche per il luogo Palazzo Grazioli dove l'incontro sembra si sia tenuto. Mi sono attivata, ho chiamato il sottosegretario Letta, dopo qualche minuto ho ricevuto una telefonata da Letta che mi ha passato il Presidente del Consiglio che in qualche modo si scusava di questo incidente che era nato da una necessità di rispondere a Confindustria, a CISL e UIL rispetto all'accordo sulla riforma del modello contrattuale che da loro era stato già sottoscritto e sul quale evidentemente avevano fatto delle richieste in maniera unitaria. Quindi scusi, credo Berlusconi le ha, confermato che sì, questo incontro c'è stato? Sì, e mi ha anche detto che adesso erano in partenza per Washington, ma che della prossima settimana ci sarebbero stati comunque degli incontri istituzionali sulla crisi finanziaria, perché io ho ricordato al Presidente che abbiamo la certezza che le banche hanno avuto, ed era giusto, un loro provvedimento e saranno sostenute anche per non penalizzare i risparmiatori, che le imprese avranno comunque uno strumento perché le banche dovranno erogare e continuare ad erogare i prestiti, in particolare alle piccole e medie imprese. La risposta che ancora non abbiamo è che cosa il Governo intenda fare per le tante famiglie di lavoratori e di pensionati che sembrano in questo momento dover pagare totalmente il costo della crisi stessa. Quindi mi sono risentita evidentemente anch'io, anche perché risulta difficile spiegare all'interno della mia organizzazione, che comunque nessuno nega storicamente un rapporto con il centrodestra, dover dire che comunque nei momenti in cui si decide noi non ci siamo. La telefonata io ovviamente l'ho apprezzata, non l'ho giudicata sufficiente, tanto è che comunque ieri ho riunito la mia segreteria e con la segreteria abbiamo mandato un messaggio chiaro: noi vogliamo esserci. Poi io non mi formalizzo, credo che in questo paese come in tutto il mondo ci siano momenti informali che precedono quelli però istituzionali e formali. Il problema è un altro: o riusciamo a fare questi incontri segreti oppure coinvolgiamo tutte le organizzazioni interessate. Segretario, avete anche richiamato il governo in quel documento del quale ci parlava un attimo fa ad un confronto trasparente sulla crisi economica. Ha l'impressione che finora la trasparenza in qualche modo sia mancata? Sì, è mancato soprattutto il confronto reale, diretto, perché guardi, io sono stata a Palazzo Chigi qualche giorno fa insieme ai miei colleghi di CGL, CISL e UIL e delle altre organizzazioni di rappresentanza. Abbiamo parlato del contratto del pubblico impiego e mentre noi andavamo via da Palazzo Chigi comunque c'era un incontro con le associazioni datoriali sulla crisi finanziaria. Io credo che sia arrivato il momento, forse è stato già superato, nel quale occorre coinvolgere necessariamente anche le organizzazioni dei lavoratori, perché fino ad oggi abbiamo sentito che ci si sta muovendo con degli interventi che probabilmente andranno a favore delle persone più deboli, quelli che noi chiamiamo i non autosufficienti. Forse si sta facendo un tentativo di dare una risposta alle famiglie, almeno quelle numerose e monoreddito, però al momento manca quella trasparenza, appunto, che ci dà la possibilità di affrontare serenamente questa crisi. Polverini, lei prima ricordava ricordava come CGL, CISL, UIL e UGL abbiano trovato un accordo, siano stati insieme nella questione Alitalia, firmando appunto il famoso accordo contro il quale invece si stanno ribellando i sindacati autonomi. Oggi, a proposito di Alitalia, il presidente della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Martone, dice: potremmo sanzionare anche i dipendenti che hanno aderito allo sciopero bianco, in pratica che hanno messo in atto in maniera pedissequa le regole di volo, rallentando così i voli e provocando poi le cancellazioni. Lei cosa ne pensa di questo? Ma io intanto penso che questo sciopero bianco, presunto tale, perché comunque loro continuano a dire, ed io devo crederli, che stanno semplicemente applicando le norme alla lettera, in qualche modo forse penalizzerà il futuro dello sciopero in questo paese. In questi giorni c'è un tentativo di riforma, anche lì non siamo stati ancora coinvolti, speriamo di avere una convocazione dal Ministero del Lavoro al più presto, e io credo che questa cosa appunto non aiuta, perché rischiamo, cosa che sta accadendo in queste ore, di avere anche l'opinione pubblica contro, e evidentemente perché penalizzata nella sua mobilità, non riescono a prendere voli, vengono ritardati, arrivano in ritardo, perdono giorni di lavoro, addirittura ci sono dei casi limiti di una persona che non riesce a portare il genitore morto perché questo aereo non riesce a partire. Quindi voglio dire che bisogna stare attenti. Dopodiché anche il presidente della Commissione di Garanzia, se ha detto questa cosa, probabilmente avrà le basi giuridiche per applicarla. Io credo che dovrebbero anche i lavoratori che in questo momento stanno applicando questa nuova metodologia di sciopero di riflettere, perché probabilmente ne usciremo tutti penalizzati, mentre invece io credo che il diritto allo sciopero, che è previsto dalla Costituzione, sia un'arma importante se utilizzata bene al momento opportuno, altrimenti, ripeto, rischia soltanto di creare un malessere nei confronti del mondo del lavoro e di dare magari la possibilità a chi vuole intervenire dal punto di vista legislativo di farlo in maniera più dura. Ultima domanda su un altro sciopero, quello dell'università. Voi avete deciso, così come ha fatto la CISL, e per quanto riguarda la CISL, sì, questo è stato interpretato come un altro segno di strappo nei confronti della CGIL, di ritirare lo sciopero dell'università di domani. Come mai? Guardi, noi abbiamo sempre un atteggiamento coerente con quello che è appunto il percorso delle nostre scelte. Noi abbiamo scioperato per la scuola e avevamo indetto lo sciopero per l'università, sicuramente sul merito, ma anche perché non eravamo stati minimamente coinvolti dal ministro Gelmini. Il ministro ha voluto ascoltarci, ha anche presentato un documento che è assolutamente in controtendenza rispetto alle iniziative che invece lo stesso ministro aveva preso prima. Mi pare che anche da ambienti dell'opposizione questo è stato riconosciuto, ma soprattutto lo abbiamo voluto fare perché vogliamo un'università migliore. Ci sembra che partecipare alla riforma sia un modo per avere un'università migliore nel nostro paese, e anche perché io credo molto in quelli che sono i segnali che arrivano dal capo dello Stato Giorgio Napolitano, che ci chiede di riformare la pubblica amministrazione, ma attraverso il dialogo e non attraverso la contrapposizione. Quindi sulla base di questo ieri abbiamo condiviso un percorso con il ministro, e quindi non ci sembrava più opportuno e logico scioperare. Grazie Renata Polverini. Grazie, segretario dell'UGL, buongiorno e buona giornata. La politica, con una notizia che arriva dalla Commissione di Vigilanza Rai, che come sapete sta cercando di eleggere il suo presidente, che tradizionalmente dovrebbe essere un membro dell'opposizione. Il nome è quello di Leoluca Orlando, fatto dall'Italia dei Valori. Siamo ancora al nulla di fatto, nella seconda votazione è valida, ha ricevuto solo 11 voti rispetto ai 24 necessari. Veltroni e Casini hanno chiesto all'Italia dei Valori di sbloccare l'impasse proponendo una rosa di nomi, ma la risposta è stata un no secco. Si dice il presidente della Camera Gianfranco Fini preoccupato per questo no secco e auspica una rosa di nomi, del resto era stato il primo a farlo, e si dice anche però preoccupato per un'eventuale rottura della prassi consolidata che assegna appunto all'opposizione la presidenza della vigilanza. Ha debuttato a Napoli in prima nazionale il Magico Show di Topolino, uno spettacolo per tutta la famiglia con i personaggi della tradizione Disney. L'ha visto per noi Enzo Danna. una combinazione unica di personaggi Disney e brillanti illusionisti per uno spettacolo dal vivo capace di entusiasmare bambini di tutte le età. Disney Live, il magico mondo di Topolino, per la prima volta in Italia in scena al Palapartenope di Napoli, riesce a fondere l'incanto dei leggendari film e delle più belle musiche di Walt Disney in una rappresentazione senza precedenti. Uno show per le famiglie che coniuga magia e divertimento. E così gli umili vestiti di Cenerentola si trasformano in un batter d'occhio in uno splendido abito da sera, le scope incantate che danzano in fantasia sollevano Minnie e il capo dei maghi, Topolino, esegue incredibili illusioni con la fata di Cenerentola, il cappellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie e gli illusionisti Brad Ross e Alex Gonzalez. Uno spettacolo che diventa anche interattivo quando l'illusionista coinvolge i bambini sul palco e la magia continua con le apparizioni degli amici di Topolino, Minnie, Pippo e Paperino e delle principesse Disney, Belle e Biancaneve. Provate a fischiettare. Insomma, uno spettacolo suggestivo unico nel suo genere, già visto da oltre 2,5 milioni di spettatori, col quale il regista Jerry Bilick riesce a superare le aspettative del pubblico. Dopo il debutto napoletano, il calendario del tour italiano prevede altre 3 tappe a Milano, Torino e Roma. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Potrebbero essere sanzionati anche gli scioperi bianchi di Alitalia, lo dice il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi Martone. Ancora voli cancellati a Roma e Milano, sono una decina gli esposti presentati alla Polaria per i disagi subiti. La CGIL chiede al governo un confronto sulla crisi. Resta aperta la frattura con CISL e UIL dopo l'incontro dei due segretari con Berlusconi. Incontro che è stato confermato ad Extra Large poco fa dalla segretaria dell'UGL Polverini. Il presidente del Consiglio ha detto: si è scusato con me. Gli immigrati sono un fattore di forza e freschezza per il paese, dice il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Debbono cadere vecchi pregiudizi, occorre un clima di apertura. La Germania è ufficialmente in recessione. Dalla BCE arriva un messaggio preoccupante per tutta l'Europa. La crescita è vicina allo zero. L'inflazione a ottobre è scesa al 3,5%, l'Istat conferma il dato preliminare, in calo la benzina, cresce il prezzo di pasta e pane. G8 di Genova dovrebbe arrivare oggi, forse dopo le 17, la sentenza per i poliziotti e i dirigenti del Ministero dell'Interno accusati di violenze nell'irruzione alla scuola Diaz. La Germania è tecnicamente in recessione. La conferma è arrivata direttamente dall'Ufficio Federale di Statistica, mentre notizie preoccupanti arrivano anche dalla Banca Centrale Europea. Banca Centrale secondo la quale sono già in recessione un po' tutte le economie di Eurolandia. Noi ci colleghiamo con Francoforte. Beda Romano. Sì, buongiorno. Allora, quali sono queste notizie preoccupanti che riguardano, come accennavamo, sia la Germania che il resto dell'Europa? Ma devo dire che credo che sia la Germania la notizia più preoccupante di oggi, perché l'Ufficio Federale di Statistica ha confermato quanto molti economisti temevano, ossia che anche nel terzo trimestre l'economia tedesca ha subito una contrazione dell'attività dello 0,5%, dopo che già nel secondo trimestre l'economia si era contratta dello 0,4%. È fondamentalmente la prima recessione in 5 anni ed è la peggiore recessione in almeno 12 anni. La Germania sta soffrendo in modo particolare il rallentamento economico mondiale e sta soffrendo più di altri paesi della zona euro. Perché? Fondamentalmente perché la Germania è molto esposta da un punto di vista internazionale, esporta enormemente. Addirittura nel 2007 le esportazioni erano pari al 48% del prodotto interno lordo. Questa proiezione internazionale della Germania ha permesso al paese di crescere molto tra il 2005 e il 2007, ma in questo momento con un forte rallentamento economico che si sta trasferendo dalle economie industriali alle economie emergenti, inevitabilmente l'economia tedesca proiettata verso le esportazioni sta soffrendo del rallentamento del commercio internazionale. Certo, se si ferma la cosiddetta locomotiva d'Europa sono problemi per tutto il continente. Succede un fatto curioso oggi, che mentre la BCE fa uscire un bollettino nel quale parla di crescita vicino allo zero, arriva un'indiscrezione secondo la quale un membro austriaco del consiglio direttivo della Banca Centrale Centrale Europea, Eval Novotny, ti chiedo se ho pronunciato correttamente, dice che in realtà le economie di Eurolandia sono già in recessione. Insomma, cosa dice la BCE? No, ho l'impressione che dicano più o meno la stessa cosa. Il bollettino della Banca Centrale Europea guarda il passato e analizza il passato e quindi si basa su delle cifre certe. Invece il governatore austriaco, parlando ai giornalisti, mi sembra a Bruxelles, ha potuto un po' lanciarsi in una analisi sulla base di alcuni dati nazionali e in particolare quello tedesco, e quindi è convinto probabilmente con ragione che il terzo trimestre negativo in Germania sia stato un terzo trimestre negativo anche per la zona euro. La situazione non è buona, inevitabilmente se la Germania rallenta e se la Germania è in recessione vi sono buonissime possibilità per cui anche la zona euro che rallenti naturalmente tutta la zona euro. Grazie Beda Romano. Tra l'altro il governatore della Banca Centrale Austriaca ha detto che le aspettative di inflazione dovrebbero scendere velocemente, questo darà alla Banca Centrale spazio di manovra per ulteriori tagli dei tassi. E proprio di inflazione parliamo adesso, Alessandra? Sì, perché oggi l'Istat ha confermato il dato italiano, naturalmente l'inflazione a ottobre è scesa al 3,5%. Fra i dati che emergono, la diminuzione del prezzo della benzina del 4,7% in un mese, mentre aumentano le tariffe. Quelle dell'energia elettrica hanno registrato un incremento dello 0,6%, quelle del gas più 3,1%. Il prezzo del pane è in aumento dello 0,1% rispetto a settembre e del 6% su base annua, mentre quello della pasta è cresciuto dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 31,6% rispetto ad ottobre del 2007. Tutto questo mentre i prezzi delle materie prime agricole sono in calo. Secondo i dati dell'ISMEA, il grano duro, quello insomma con il quale si fa la pasta, è sceso di oltre il 10% nell'ultimo mese. In calo del 7% il prezzo del grano tenero. Queste non sono naturalmente accuse nei confronti di nessuno, sono dati che vi stiamo riferendo. Negli ultimi due anni le concessioni di cittadinanza sono raddoppiate. Il dato è stato fornito questa mattina dal ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Dalle 19.000 del 2005 si è arrivati alle oltre 38.000 nel 2007. Oggi una rappresentanza di questi cittadini è stata ricevuta al Quirinale. E infatti di immigrazione ha parlato anche il presidente della Repubblica, Napolitano. Sentiamolo. Questo afflusso di nuove energie provenienti da ogni parte del mondo e radicatesi nel nostro paese è un fattore di freschezza e di forza per la nazione italiana. Occorre naturalmente procedere con serietà, evitando innesti frettolosi che si rivelerebbero artificiali e fragili. Ma il punto di partenza non può non essere una presa di coscienza collettiva del carattere non temporaneo che ha assunto il fenomeno dell'immigrazione in Italia. E di migrazione, anche se in un'altra occasione, ha parlato questa mattina il ministro del Welfare Sacconi. Sentiamo. Con 3,5 milioni di presenze, gli immigrati rappresentano ad inizio 2008 il 5,8% dell'intera popolazione in Italia. In Lombardia vive un quarto degli stranieri, mentre in Liguria la maggiore concentrazione di badanti, soprattutto equadoregne, per via del gran numero di popolazione anziana. Nel rapporto del CNEL sugli immigrati nel mercato del lavoro italiano, presentato oggi a Roma, è stata però individuata un'area grigia che sarà ulteriormente indagata. E cioè che il tasso di disoccupazione degli stranieri è superiore di quasi 3 punti percentuali rispetto agli italiani. Nel campo della formazione professionale nelle aziende emerge poi che a fronte del 47% degli italiani, solo il 13% degli immigrati viene qualificato mediante corsi. Il ministro del Lavoro Sacconi ha commentato i dati forniti dal CNEL dicendo che ci sarà un giro di vite nella lotta contro l'immigrazione illegale, poiché sarebbe un paradosso poter entrare nel nostro paese come clandestini e non riuscire a fare il proprio ingresso qualora si abbiano alti requisiti professionali. E quindi per questi alti profili professionali, come ad esempio per i docenti universitari, si apriranno canali separati come già attuato per gli infermieri. Daniela Binello, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da domani e fino al 23 novembre la settima edizione della Settimana della Cultura d'Impresa, tradizionale appuntamento organizzato da Confindustria, oltre 50 eventi fra convegni e forum incentrati su cultura, creatività e competitività. Alessandro Laterza, presidente della Commissione Cultura di Confindustria, al microfono di Adriana Fracchia, parla dei temi di questa edizione. I criteri ispiratori sono due: lavorare sul tema delle reti per la competitività da un lato e sul tema della creatività dall'altro. Reti per la competitività perché questa è una delle chiavi di volta che abbiamo individuato come sistema per poter rispondere a questi scenari, tanto più oggi di crisi e comunque difficili di competizione globale, e creatività perché questa è una delle chiavi di volta della nostra capacità di proporci come sistema paese nel mondo e anche come chiave di volta per quelle che sono le attività di impresa che sempre più devono lavorare sull'innovazione e sempre meno possono contare sui fattori di costo tradizionali. Quindi temi che hanno molto a che vedere con la vita delle imprese nello svolgimento concreto, ma che poi si aprono ovviamente a considerazioni più generali in merito a quelli che sono i grandi temi di cui ci dobbiamo occupare su ispirazione della Presidente Marcegaglia come Commissione Cultura, che sono la responsabilità sociale di impresa, la cultura di impresa e i beni culturali come fattore di sviluppo, non solo come patrimonio da tutelare e conservare. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. All'Italia il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi Martone dice potrebbero essere sanzionati anche gli scioperi bianchi. Una quarantina i voli cancellati oggi. La CGIL chiede al governo un confronto sulla crisi. Resta aperta la frattura con CISL e UIL dopo l'incontro dei due segretari con Berlusconi. Incontro che è stato confermato ad Extra Large dal segretario dell'UGL Polverini. Il presidente del Consiglio ha detto si è scusato con me. Gli immigrati sono un fattore di forza e freschezza per il paese, dice il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Debbono cadere vecchi pregiudizi, occorre un clima di apertura. La Germania è ufficialmente in recessione, dalla BCE arriva un messaggio preoccupante per tutta Europa, la crescita è vicina allo zero. Inflazione ad ottobre scesa al 3,5%, l'Istat conferma il dato preliminare, in calo la benzina, cresce il prezzo di pasta e pane. G8 di Genova, è attesa per questa sera la sentenza per i poliziotti e dirigenti del Ministero dell'Interno accusati di violenze nell'irruzione alla scuola Diaz. Un aggiornamento dall'Italia prima di tutto perché la Commissione di garanzia sugli scioperi ha deliberato l'apertura di un procedimento di valutazione, insomma un procedimento nei confronti del Comitato di sciopero e di lotta e in particolare del segretario nazionale della CUB Trasporti, Fabio Frati. Questo per lo sciopero di 24 ore indetto lunedì pomeriggio nell'ambito delle vertenze su Alitalia. Quindi non stiamo ancora parlando dello sciopero bianco di queste ore per il quale insomma Martone sta ancora valutando. Si riferisce insomma allo sciopero selvaggio, no? Allo sciopero bianco. Ma noi continuiamo a parlare di Alitalia, ma per quanto riguarda il fronte europeo, ieri ve lo abbiamo raccontato, il via libera di Bruxelles all'acquisizione della compagnia da parte di CAI, a condizione che la vendita degli asset avvenga a prezzi di mercato. Bocciato invece il prestito ponte da 300 milioni di euro. Sergio Nava ha intervistato il commissario europeo ai trasporti, Antonio Tajani, ed è partito dalla trasparenza dell'operazione. Mi pare che ci sia assoluta trasparenza perché ci sono state 60 offerte da soggetti diversi rivolti all'Italia per l'acquisto di assets della compagnia, quindi c'è stata una partecipazione anche di soggetti extra europei e non soltanto extra Unione Europea. Quindi c'è stata la volontà di partecipare, è stata resa pubblica, trasparenza c'è stata, non è il primo caso che accade questo, si vende a prezzo di mercato come noi chiediamo attraverso la vigilanza e il monitoring trustee, direi che le regole europee sono state tutte rispettate. Sì, però di fatto quando il governo dice non vogliamo un partner di maggioranza straniero, quando apre una trattativa di fatto privata e solo dopo apre una manifestazione di interesse pubblica, forse non è il caso di dire che non ha del tutto tenuto conto del panorama europeo? Ma mi pare che una realtà differente da quella che si sta prefigurando non esiste, è una realtà teorica. Air France la voleva l'Italia. Ma poi Air France ha rinunciato perché si è trovato di fronte a un no dei sindacati, quindi Air France ha ritirato la propria offerta, quindi si è conclusa, ci sono state nel pregresso tante fasi diverse e adesso l'unica possibilità che abbiamo di fronte sia a livello nazionale sia a livello europeo è quella che si sta configurando oggi, quindi è importante che ci sia invece la presenza di compagnie straniere, sia essa British Airways, sia essa Lufthansa, sia essa Air France, che vogliono diventare partner di una compagnia nuova, privata. Questo significa che c'è movimento, che c'è mercato, che c'è concorrenza. Ecco, proprio la concorrenza, Qui c'è un altro, tra virgolette, punto interrogativo, perché quando da due compagnie che si contendono nel mercato nazionale se ne forma una, ovviamente poi occorre spiegare agli utenti, a chi compra regolarmente biglietti, che forse non ci sarà più quella gara al ribasso che favoriva alla fine l'utente finale. Non ci sono preoccupazioni da parte vostra a riguardo? Ma noi per esempio oggi abbiamo dichiarato che è compatibile con le normative europee il prestito che lo Stato sta dando dal Eagles, che è una compagnia italiana, e quindi c'è la possibilità che si cresca il mercato anche in Italia. È una compagnia che è alternativa. Molto piccola al Eagles, è molto piccola, opera su piccole rotte nel nord. Opera nel nord, ma quindi si crea concorrenza con l'Italia nuova, come si chiamerà, e quindi direi che da questo punto di vista io non sono eccessivamente preoccupato. Io sono convinto che la concorrenza ci sarà all'interno del sistema italiano, che fa parte del sistema europeo. Ci saranno compagnie non italiane, basta vedere cosa è successo al Malpensa quando si è ritirata all'Italia con alcune rotte, con alcuni slot. Veniamo ora alle tensioni, alle nuove tensioni fra Stati Uniti e Russia a proposito dello scudo spaziale. Il ministro della difesa americano Robert Gates risponde questa mattina senza mezzi termini a Mosca e dice la proposta di Medvedev agli Stati Uniti di rinunciare ad andare avanti con il progetto di scudo spaziale è inaccettabile. Questi dunque i rapporti con l'attuale amministrazione americana. Giulia Crivelli, sembrano registrarsi invece passi avanti su quella che sarà la prossima amministrazione americana. Sì, il Figaro di oggi ha un'apertura tutta su uno sfondo blu e su cui nella prima pagina di Figaro campeggia Medvedev, il presidente russo, e il titolo è Medvedev tende la mano a Obama. È come se appunto anche la Russia, anche Medvedev sia stato un po' colto dalla Obama mania o comunque semplicemente vede un nuovo modo di fare le cose, una possibilità di collaborare in un modo diverso, fa addirittura una proposta: voi rinunciate ai vostri missili in Polonia e noi rinunciamo, abbandoniamo i nostri nuovi programmi nucleari. Naturalmente è tutto da vedere, poi il fatto che sia fatto tramite un giornale europeo, insomma bisogna poi appunto aspettare, però è comunque un segnale positivo a cui Le Figaro dà uno spazio gigantesco, anche perché è un'intervista esclusiva di Medvedev al quotidiano francese. Giulia, il cambio della guardia alla Casa Bianca non prevede solo l'ingresso di un inquilino illustre, ma pare insomma che si sia aperta la possibilità per molti di andare a lavorare alla Casa Bianca. Naturalmente oltre alle suocere che stanno per entrare, certo, alla Casa Bianca. Sì, è il vero spoil system, quello all'americana. Cambia l'amministrazione, cambiano tantissime persone alla Casa Bianca e soprattutto nella macchina politica americana che è a Washington, e chi vuole lavorare per Obama, dice oggi il New York Times, deve compilare un questionario di 7 pagine in cui viene chiesto di tutto, compreso se si è su Facebook, se si è mai dato se si è mai fatto dei discorsi in pubblico che potrebbero essere compromettenti, e poi si chiede per esempio anche la lista delle ultime 10 persone con cui si è convissuto, con una breve descrizione, e poi naturalmente tutto quello che è il curriculum professionale. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo domani sempre per la rassegna stampa internazionale. A proposito di Stati Uniti e Obama, oggi è su tutti i giornali sia stranieri ma anche italiani la notizia della telefonata fra il presidente americano eletto ed il Papa. Ma fra Vaticano e futura amministrazione pende una questione: la ricerca sulle cellule staminali. Bush aveva vietato quella sulle staminali embrionali, mentre aveva detto sì agli studi su quelle adulte. Obama vorrebbe togliere questo divieto. Per districarsi meglio in questa complessa vicenda vi segnaliamo un libro, si intitola Staminalia, le cellule etiche e i nemici della ricerca, scritto da Armando Massarenti e pubblicato da Guanda. Sentiamo l'autore. Il libro ricostruisce molto accuratamente tutti i fatti rilevanti, oltre al dibattito etico, scientifico, filosofico, rilevanti rispetto a una questione soprattutto che è venuta di attualità in questi giorni, cioè la questione se ci siano alcune cellule, cosiddette cellule etiche, cioè quelle le staminali adulte, se queste siano le uniche che servono a qualcosa, come sostiene una certa propaganda di tipo religioso, e che quindi renderebbero del tutto inutile la ricerca sulle cellule staminali embrionali. E non c'è nessuno scienziato al mondo che sostenga che si deve fare ricerca solo su un certo tipo di staminali, perché la ricerca è ancora abbastanza indietro tutto sommato. Poi c'è un fatto anche molto banale che la gente comune può capire. Se noi pensiamo che è importante far comportare, perché per essere etici vogliamo fare in modo che le cellule adulte, ed è ottimo che si faccia questo, le cellule adulte si comportino come embrionali, come facciamo a farlo se non sappiamo come funzionano le embrionali? Illecito anche lo sciopero bianco, dice la commissione di garanzia. Per Alitalia oggi una quarantina di nuove cancellazioni. La Germania è in recessione, l'Europa lo è quasi certamente. Da Berlino e dalla BCE due allarmi sullo stato dell'economia. La CGIL chiede al governo un confronto sulla crisi. Resta aperta la frattura con Cisl e Uil dopo l'incontro dei due segretari con Berlusconi. Incontro confermato ad XL dalla segretaria dell'UGL Polverini. Il presidente del Consiglio dice si è scusato con me. Basta pregiudizi, richiamo di Napolitano sull'immigrazione. Dai nuovi arrivati forza e freschezza. G8, oggi pomeriggio la sentenza per l'irruzione alla Diaz, sotto accusa 29 tra poliziotti e dirigenti del Ministero dell'Interno. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi e regia Peter Bescapè. Ci sentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.